and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Cari bambini, Natale si avvicina. Vabbè. E con Natale si avvicina anche la decisione più importante della vostra vita. Olà. Quale regalo chiedere? Vabbè, dai, però Drago, il 25 novembre, quindi, manca ancora un mese di tempo per decidere, ne avete ancora tanto. Non bambini. Ascoltate Drago, no. Ricordate di scrivere a Rovaniemi, in Finlandia, una bella letterina per Babbo Natale. E comportatevi bene, perché se fate i monelli il regalo non arriva. E soprattutto, quindi... soprattutto cercate di non leggere i giornali, e in special modo quelli francesi. Tito, cosa c'è adesso? No, ma c'è ragione. Ma non è vero. Ma di cosa parli? Stavamo parlando di Babbo Natale, ti sei messo a blatterare di giornali francesi. Vabbè, ma vedi che Tito a volte è troppo zelante. Deve far finire il discorso e solo dopo intervenire. Non è d'accordo. Ma Tito, dai, buono. Guarda che c'entra con Babbo Natale tutto questo, Le Père Noël. Infatti, le Père Noël n'existe pas. Questo è il messaggio shock di uno spot andato in onda su TF1 in prima serata, prima del cartone animato di Ratatouille. Inutile dire che c'è stata una mezza rivolta. Certo, si sa, i francesi è gente. Gente cosa? Gente. La sappiate gente... che Kappa sta facendo un gesto con le mani che si stringono a pugno, forse per dire che i francesi sono pugnaci, non lo so, ma Kappa di qualcosa. Gente, insomma, gente, le loro belle rivoluzioni con teste che rotolavano le hanno sempre fatte, no? E quindi è gente. Se ci fosse stato il bambino Travaglio al tempo della rivoluzione francese, si sarebbe chiamato Enfant Travail, avrebbe tagliato un mucchio di teste, effettivamente. La Madonna! Ma adesso cosa ha ragione? Cosa c'entra Travaglio? Niente. Spiega piuttosto cos'era lo spot francese di Père Noël, no? Ecco, sentitelo qua, sono solo pochi secondi. Un padre dice a un figlio le seguenti parole. Un pauvre garçon, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Beh, figure-toi que le Père Noël n'existe pas. Che vogliono dire figliolo, una cattiva notizia, Babbo Natale non esiste. Ecco. Ma il figlio avrà 35 anni? Ma infatti è lo spot di una banca e la frase su Babbo Natale è solo accessoria per spiegare che le altre banche imbrogliano, sono poco chiare, mentre quella banca lì no. Però ci sono state le reazioni immediate di tutti, dai bambini ai genitori, tutti uniti contro lo spot guastafeste. Ma certo, scusa, sarebbe stato meglio che quel padre evitasse di dire in TV davanti a tutti una cosa così. Spot, eh. Ma dai, scusa, anche se a 35 anni non si dice Babbo Natale. Capito, è una cosa privata. Come? Cioè, gli devi dire sul lettino, in camera sua, si siede lì con te e gli dici: guarda, capito, ti devo dire una cosa, ormai sei diventato grande. Ma hai ragione. Per noi esiste pas. Infatti, i bambini, guarda, sono scoppiati tutti a piangere, hanno cominciato a bombardare i genitori di domande, imbarazzanti. Ma come? Io ho scritto la lettera in Finland e le Père Noël n'existe pas, tutte robe così. Ma cos'è? Così è francese. Sì, è così, vabbè, è bon. Ma invece i genitori poverini cosa hanno fatto? Cosa vuoi che abbiano fatto? Hanno imposto alla rete di mandare in onda lo spot in orari così quando non c'erano i bambini. A notte fonda. Sì, e infatti la banca ha subito tagliato la frase incriminata dallo spot e non manda le 20:30. Quindi tutto bene. Sì, però ormai i bambini francesi, almeno quelli che stavano per vedere Ratatouille in TV, hanno perso fiducia nelle istituzioni bambine, tipo Babbo Natale. Perché invece c'è la fiducia nelle banche. E piace le polpette, tagine, cotolette e sacco le spaghetti. Niente scatolette, solo la babona, anche la salata e la cotta scatolona. Che fame, che fame, così me la mangia. Che fame, che fame. Ho fame, Drago, ho fame. Go fame da sime da magnà. Apriamo una parentesi culinaria, Drago? Sì, eccomi. Allora, che culinaria. Tu l'hai mai guardato Cotto e mangiato con la bambina Parodi sorella? Ah sì, di sfuggita, così l'ora di pranzo. Ecco, no, allora ti invito a guardarlo con molta attenzione. Perché? Perché è la versione bambina dei programmi di ricette tradizionali, capito? Ma sì, se noti ci sono i cibi che vengono come iconizzati prima della preparazione. Cioè? Nel senso che ti fanno vedere la foto del piatto finito tipo ristorante cinese, capito? Sì, sì, è abbastanza brutto da vedere. Ecco, così ti risparmi anche lo sforzo di immaginarti come verrà la pietanza. E ti fanno capire bene di cosa si tratta. Ho capito. Torta, ma non te la fa vedere. Non si capisce tanto bene, tutto fotografato male. Vabbè. Comunque poi la bambina Parodi sorella fa tutte cose super fritte, super condite, come piace ai bambini. Quindi ecco un altro motivo perché alla faccia, è la versione bambina alla dei programmi dei cibi di pinguini che vengono sempre reclamizzati come sani. Ma la bambina sorella Parodi sorella, è l'anti-slow food. Vabbè, sì. Se vuoi cucinare in fretta e con ingredienti poveri, nel senso di scadenti industriali, con cotto e mangiato sei a posto. Io l'ho visto poche volte, però ho notato che una ripresa sì e una ripresa no, beccano sempre l'altro cameraman. Di solito quello con la barba che sta lì a guardare i piatti in primo piano. Hai colto il personaggio. È personaggio lui, che insieme alla sosia della bambina Parodi sorella impazza nel web, nei siti porno. Ma cosa dici? In una parodia di cotto e mangiato porno. Ma non è vero. Sì, ma... sì, dove c'è il cameraman con la barba che insomma fanno la torta e poi, e dopo poi come finisce? Insieme nella farina capito? Senti qua com'è. Vabbè, ma la bambina Parodi sorella con il libro tratto dalla trasmissione TV vende centinaia di migliaia di copie. Sì, altro che programma trash, cheap, porno web, hai come ragione, dicono i raffinati. Hai ragione, libro. Chissà se nel libro c'è il cameraman con la barba. Nel libro? Vabbè, se dà fastidio la barba se la fa. Chiedo asilo! Giovedì, giorno di talk show, quindi giorno di Fight Club. Ma no? Con la campagna elettorale già in pieno svolgimento, Drago, ormai le occasioni di Fight Club per i bambini politici ci sono tutti i giorni. Quasi più notizia. Ma vieni via con me, del bambino Fazio, del bambino Saviano. Ha avuto un grande successo di pubblico. Il merito del modesto grado di difficoltà scelto degli autori. In che senso? Nel senso che è come i videogiochi, no? Puoi scegliere quando cominci a giocare di scegliere la modalità quella più semplice e loro hanno scelto quella lì. Cioè? Ma sì, dai, con la tiritera degli elenchi. Intanto hanno rubato una bella idea a Nick Hornby, che è quello di Alta Fedeltà, Febbre 90. Sì. Poi si sono sistemati. Boh, gli elenchi li capiscono tutti, tutto vero, falso, buono, cattivo, bianco, nero, senza gradazioni di grigio e via così. Resto in Italia perché si mangia bene, me ne vado dall'Italia perché c'è il lodo al faro, ma in effetti il grado di complessità abbastanza bassino. Ma è giusto così, perché? È giusto così, perché siamo tutti regrediti a bambini appena scolarizzati, quindi è giusto che in TV ci facciano degli schemini semplici, l'elenchino, così sappiamo sempre che cosa pensare senza sforzarsi, che va bene così. In Vieni via con me però, e questo bisogna ammetterlo, bisogna dirlo, ed è anche un merito dei conduttori, è che non c'è spazio per i Fight Club, non litigano mai. No. Però i Fight Club purtroppo continuano imperterriti su altre frequenze. O per fortuna, secondo. Il bambino Vespa, ad esempio, non è stato capace di sedare la rissa verbale tra l'enfant terrible Gasparri e il bambino Sorgi. Senti qua. Meno non è ancora, vero, ha scritto al Parlamento chiedendo di andare in Parlamento. Ma noi è direttore, ma che posso dire cose? Come dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Io dico quello che crede. E la prego, mi piace. Ha scritto al Parlamento. Ma signore, per piacere. Ha scritto o no? Ha scritto o no il Presidente di Casa? Madonna. Ha scritto o no? Gasparri. Sì o no? Senatore, come dice la prego. Vorrei sapere, ha scritto o no? No, io vorrei dire quello che dico io. Allora, Berlusconi ha scritto ai presidenti di Camera e Senato. E ora, bambini, benvenuti a... L'asilo degli orrori. Fiaba horror. Vi chiedo asilo. C'era una volta un vecchietto che odiava i bambini. Li odiava perché lui era vecchio e alla fine della vita, mentre loro erano giovani e con la vita ancora tutta davanti. Abitava vicino ai giardinetti, così ne vedeva sempre tanti di bambini che giocavano felici sui dondoli e le altalene. Tutti i giorni si metteva davanti ai giardinetti con un cartello al collo che diceva «Anche voi dovete morire». I primi tempi i genitori non ci fecero caso, pensarono che fosse un pazzo o un maniaco religioso. Ma in breve si accorsero che il vecchietto era sempre lì, estate e inverno, col sole o con la nebbia, sempre lì con il suo cartello «Anche voi dovete morire». E che i bambini diventavano tristi ogni volta che lo vedevano, anche quelli che non sapevano ancora leggere. Fu così che i genitori, stanchi di vedere sempre quell'uccello del malaugurio, circondarono il vecchietto e lo riempirono di botte, lasciandolo sul terreno morto. È morto. I bambini si spaventarono per quello scoppio di violenza e i genitori, ancora esaltati dal sangue fresco, rivolsero la loro furia verso i loro stessi figli. Non ci sono morali da imparare, solo una cosa brutta in più da tenere a mente. Torniamo domani. E mandate le vostre letterine per Babbo Natale a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.